Letture di Radio 24. Si chiama Alleanze nell'ombra, mafie e ecomafie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno. È il titolo del rapporto annuale sulla penetrazione delle mafie nella cosiddetta zona grigia, in quell'area, cioè dove l'economia pulita incontra quella criminosa. Lo firma la Fondazione RES, che lancia l'allarme. L'economia illegale costa a ogni italiano 345 euro all'anno e rappresenta il 2,6% del PIL nazionale. Lo ha detto il presidente di Confindustria Sicilia, Ivan Lobello, a proposito di Catania. La mafia si è fatta imprenditoria ed è entrata nel circuito delle imprese. Lo hanno ribadito gli studiosi che hanno partecipato alla presentazione del rapporto annuale della Fondazione RES dal titolo Alleanze nell'ombra, mafie ed economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno. Un rapporto, quello della Fondazione presieduta da Carlo Trigilia, che ha voluto dare un quadro dell'attività dell'area grigia, intesa come luogo di incontro tra l'economia pulita e quella criminale. E ha messo in luce che negli ultimi 15 anni, mentre i fenomeni delittuosi sono diminuiti, soprattutto in Sicilia, ma meno in Campania e Calabria, l'area grigia, la collusione tra imprenditori e mafie, appare sempre più strutturata. È emerso come la presenza delle mafie nell'economia sana aumenti con l'aumentare delle operazioni di polizia. I successi dell'azione di magistratura e forze dell'ordine, si legge, possono spingere i gruppi mafiosi verso strategie di investimento in settori leciti che, grazie alla compiacenza di imprenditori insospettabili e dal volto pulito, sono più difficili da svelare e contrastare. Alla base di tutto, l'abbassamento del costo morale, come lo ha definito Trigilia, ovvero la disponibilità di vari soggetti ad accettare l'alleanza nell'ombra. Non sono solo le mafie ad andare verso le imprese, ma molto spesso sono le imprese a cercare la mafia ritenendola un valore competitivo, addirittura un valore aggiunto. Il gruppo di lavoro che ha curato il rapporto ha trovato i riscontri nelle carte della magistratura, nella lunga pubblicistica dedicata al tema. È un lavoro, ha detto Lobello, che mette da parte i luoghi comuni tra mafia ed economia e segnala come la mafia si sta spostando sempre più verso la dimensione economica. Per quanto riguarda la zona grigia, la mafia ha bisogno di spazi sempre maggiori per costruire mercati protetti e ha bisogno di complicità, anche politiche. Già, la politica, di cui si è occupato Giovanni Fiandaca, professore di diritto penale a Palermo. Bisogna andare oltre l'attuale configurazione del concorso esterno in associazione mafiosa, ha detto. Quando è un politico a chiedere i favori alla mafia, bisogna trovare il modo di sanzionare questo comportamento. Mentre il direttore generale di Unicredit, Roberto Nicastro, ha sottolineato quali e quante siano le difficoltà delle banche sul fronte del riciclaggio. Bisogna puntare di più sulla moneta elettronica, ha detto, per scoraggiare l'economia illegale. La ricerca dedica un capitolo ai costi per la collettività. Nelle regioni del sud il costo diretto e indiretto per i soli reati di mafia è del 2,6% del PIL. In Italia il costo è dell'1,3% del PIL. Un costo per abitante che va dai 445 euro della Sicilia ai 496 euro della Campania, a fronte di una media nazionale di 344,6 euro per ogni cittadino. Altro dato. Al nord la criminalità gestisce le attività tradizionali, ma vi è una bassa penetrazione nell'economia locale, che è invece molto più alta nel sud. Nino Amadore ha pubblicato su Il Sole 24 Ore del 2 dicembre l'articolo dal titolo «Gli affari della criminalità valgono il 2,6% del PIL». Letture di Radio 24. I giornali Free Press sono distribuiti al mattino nelle stazioni o alle fermate metropolitane delle grandi città. L'idea è quella di fornire gratuitamente ai pendolari un'informazione fruibile in 20 minuti, che è il tempo di spostamento casa-lavoro di un lavoratore medio. Dopo gli anni degli esordi, la Free Press ha vissuto una breve stagione dell'oro, per poi accusare un calo che ha dato il destro ai suoi critici per salutarla come un fenomeno fortunatamente passeggero. Sono infatti molti quelli che ritengono che la Free Press non possa essere considerata vera informazione e che anzi abbia abbia disincentivato le persone dall'informarsi seriamente, cioè leggendo i più classici e pensosi quotidiani a pagamento. Ma forse qualche merito la stampa gratuita ce l'ha. Nel treno per pendolare su cui salgo la mattina per recarmi al lavoro, l'unico o quasi a leggere un giornale comprato all'edicola sono io. La maggior parte dei viaggiatori ha in mano una o due delle differenti testate Free Press che vengono omaggiate all'ingresso della stazione e poi regolarmente abbandonate sui sedili del treno. Oggi la Free Press è in crisi, alla pari, se non di più, dei quotidiani a pagamento. Delle varie testate che esistevano sino a 3 anni fa in Italia, ne sono rimaste 4. Metro, Leggo, City e D-News. Tra il 2003 e il 2008 il numero di copie diffuse sul territorio nazionale era passato da 14 milioni a 42 milioni, per poi scendere di colpo. Non ci sono dati aggiornati sulla loro effettiva tiratura. Metro, il primo nato da un format svedese e diffuso in tutto il mondo occidentale, ha 5 edizioni locali e viaggia, pare, intorno alle 800-900 mila copie. Leggo, il più pop dei giornali free, quello di maggior successo, da quanto vedo sul treno ha invece 15 edizioni locali ed è intorno ai 2 milioni di copie. City, con 9 edizioni locali, diffonde 800 mila copie. Su D-News non ho trovato dati, circola in sole 3 città. La Free Press è un fenomeno che occupa le prime ore del mattino. Nei luoghi più frequentati della città, un folto numero di extracomunitari distribuisce i giornali davanti alle stazioni dei treni e del metrò, nei piazzali dei pullman e nelle strade più frequentate. I lettori sono quasi tutti pendolari, per la maggior parte immigrati. Si tratta di fogli ricchi di pubblicità, piccola pubblicità locale che non entra nei giornali maggiori o nelle riviste perché troppo costosi. Sono letti da un pubblico poco acculturato, con consumi orientati verso i gadget e gli oggetti di largo consumo. Tuttavia un merito la Free Press l'ha, è davvero grande. Ha insegnato l'italiano agli immigrati. Nel corso dell'ultimo decennio, i principali lettori sono stati peruviani, ecuadoriani, colombiani, romeni, albanesi, polacchi, ovvero molte delle nazionalità arrivate in Italia. Forse bisognerebbe pensare di dare un premio speciale alla Free Press. Sono stati il maestro Manzi della nuova alfabetizzazione all'italiano. Non è mai troppo tardi, come si chiamava la trasmissione televisiva di Manzi, anche con la Free Press. Avete ascoltato l'articolo di Marco Belpoliti, Free Press, restano solo gli immigrati, pubblicato dalla Stampa di lunedì 6 dicembre. Non è la prima volta che ci si aspetta qualcosa dai giovani. Le proteste anti-Gelmini delle settimane passate, i ricercatori in campeggio sui tetti, la generazione 1000 euro, attivismo giovanile che ha, nella mente di molti, un obiettivo fumoso quanto altisonante, una qualche forma di rovesciamento del potere a cui dovrebbe seguire un miglioramento delle condizioni di vita di ciascuno. Ma anche questa volta il soufflé si gonfia, la rivoluzione si avvicina e poi si affloscia. I giovani, ancora una volta, non ce l'avranno fatta. Ma non sarà invece che è il sistema ad essere più coriaceo di una gallina vecchia? Il giovanilismo è di nuovo alla ribalta della scena italiana, chiamato a recitare la parte che da 30 anni è sempre sua. I giovani, o per meglio dire poche decine di migliaia di questi che manifestano con parole d'ordine di sinistra, sarebbero gli araldi del cambiamento, della svolta, del risveglio, l'avanguardia della protesta di tutta la società contro il potere cattivo di turno, preludio alla sua sospirata mandata in soffitta. Naturalmente si scopre in breve che i giovani non annunciano in realtà nulla di quanto sperato. La protesta si spegne e tutto torna come prima, mentre il paese resta in attesa della prossima immancabile rivolta, con le stesse immancabili foto di cortei, gli stessi immancabili articoli entusiasti dei giornali, le stesse penose interviste ai presunti ribelli. Ma la fortuna politico-mediatica del giovanilismo è solo un modo per nascondere la realtà. E cioè che l'Italia della Seconda Repubblica è un paese sempre più dominato dai vecchi. Lo è innanzitutto per un puro fatto biologico anagrafico, perché la combinazione della scarsa natalità e della diminuita mortalità ha reso gli ultra 65 anni sempre più numerosi. ma più in generale perché negli ultimi 20 anni il paese ha perso slancio, fiducia e vitalità, è andato ripiegandosi su se stesso. La società italiana si è progressivamente rinchiusa dietro le antiche difese che la sua storia ha costruito, dietro la famiglia, ma ancor più dietro la corporazione e l'oligarchia, quasi sempre saldate insieme in un blocco ferreo. In nessun altro paese dell'Europa occidentale, come in Italia, i vertici degli ambiti lavorativi, sia pubblici che privati, con un minimo di qualificazione sono protetti da regole di accesso, formali o informali, le quali di fatto sbarrano il passo a chiunque non si trovi già inserito nel personale da decenni o non goda di appoggi potentissimi. Dell'università neppure a parlarne, ma non è solo lo Stato. Il sistema bancario, ad esempio, è ormai da decenni nelle mani degli stessi, mentre i nuovi ingressi avvengono con il contagocce. In complesso, poi, tutti i consigli d'amministrazione del settore privato vedono la presenza strabordante di persone intorno ai 70 anni. La politica non dà certo il buon esempio. Non solo ritirarsi da essa a una certa età per dedicarsi a qualche altra attività è cosa da noi sconosciuta, non solo l'età media dei leader italiani è seconda solo a quella della Corea del Nord, ma ogni volta che essa è chiamata a nominare i vertici di qualcuno dei 1000 enti alle sue dipendenze, si può essere sicuri che nel 90% dei casi sceglierà un vecchio politico o un vecchio burocrate con una lunga carriera alle spalle nei più svariati incarichi. Una persona giovane, un quarantenne dinamico, mai, si può essere sicuri. Oltre a essere un potere ancora oggi massicciamente maschile, il potere italiano è un potere vecchio e di vecchi. Privo di gusto per il nuovo, a corto di idee ed iniziative coraggiose, incapace di rischiare davvero, ampolloso e ripetitivo, è abituato a muoversi con circospezione pari al suo stanco scetticismo, un potere rappresentato da volti che abbiamo sotto gli occhi da così tanto tempo che ormai ci sembrano eterni. La sua durata media è il mezzo secolo. In questo modo, sulla scena italiana, i giovani diventano sempre meno visibili, tant'è vero che capita ormai frequentemente di trovarsi in situazioni o immersi in pubblici in cui tutti hanno un'età come minimo matura. Adulati e additati alla pubblica ammirazione come gli araldi del nuovo, gli italiani giovani di fatto sono gli ostaggi segregati e le vittime di tutto ciò che è vecchio. Avete ascoltato l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia, Il potere grigio degli oligarchi, pubblicato dal Corriere della Sera di lunedì 6 dicembre. Si intitola Ultima notte a Twisted River, l'ultimo libro di John Irving, scrittore americano che nel 2000 vinse il premio Oscar per la miglior sceneggiatura per il film Le regole della casa del sidro, tratto da uno dei suoi romanzi più famosi. Protagonista del suo nuovo romanzo è Dominique Bacigalupo, un cuoco che vive a Twisted River, piccolo paesino di boscaioli nel New Hampshire, assieme al figlio 12enne Danny e alla lavapiatti Indiana Jane, che è anche la sua amante segreta. Una notte il piccolo Danny si sveglia sentendo dei rumori. Gli sembra di sentire scorrere l'acqua e pensa che sia Jane che si sta facendo il bagno. Ma sente anche un cigolio sospetto e, temendo il peggio, ricorda che suo padre teneva sempre a portata di mano una grossa padella con la quale anni prima si era difeso dall'attacco di un feroce orso. Non importava che Danny fosse sicuro di aver sentito scorrere l'acqua in bagno. Ciò che importava ora era il nuovo, incessante cigolio, perché ora era chiaro da dove provenivano i violenti cigolii e i gemiti. Giungevano dalla camera di suo padre, e quelli che il ragazzo udiva avvicinandosi erano senza dubbio dei gemiti, o peggio ancora, dei piagnucolii. Quello che Danny Bacigalupo avrebbe visto, o più precisamente quello che avrebbe creduto di vedere, era tutto ciò che aveva sempre temuto, o anche peggio, nel senso che l'orso era più grande e più peloso di quanto avrebbe mai potuto immaginare. Sotto l'animale si vedevano soltanto le ginocchia e i piedi del cuoco. E la cosa più spaventosa era che le gambe erano immobili. Si muoveva solo l'orso. La bestia tondeggiante e ingobbita, di cui non si scorgeva la testa, scuoteva il letto intero. E la sua pelliccia nera e lucida era più lunga e fluente di quanto Danny avrebbe mai creduto possibile per un orso nero. L'orso stava consumando suo padre, o così gli sembrava. Il piccolo Dan tese la mano verso la padella di ferro battuto come se fosse la sua arma scelta, non quella di suo padre. Quella padella era una leggenda, e Danny sapeva esattamente dove si trovava. Reggendola con entrambe le mani, si avvicinò al letto e prese la mira sul punto in cui pensava dovesse trovarsi la testa dell'orso. Aveva già cominciato il suo rovescio a due mani, quando notò le piante nude di due piedi, senza dubbio umani. I piedi erano in posizione di preghiera accanto alle ginocchia di suo padre, e Danny pensò che somigliavano molto a quelli di Jane. «Jane?» chiese in tono fievole e dubbioso, ma nulla poté rallentare la velocità acquisita dalla padella di ferro battuto. Jane doveva averlo sentito, poiché alzò la testa e si voltò. Fu per questo che la padella la colpì con violenza alla tempia destra. Il suono che produsse, un gong sordo ma profondo, venne seguito da un formicolio che il piccolo Dan avvertì prima sulle mani e che poi gli risalì i polsi e gli avambracci come un riverbero. L'unica consolazione che Danny Bacigalupo avrebbe provato per il resto della sua vita, o se non altro finché ne avesse avuto memoria, fu quella di non aver visto l'espressione del bel volto di Jane al momento dell'impatto con la padella. Avete ascoltato la lettura di alcuni brani dal libro di John Irving, Ultima notte a Twisted River, Rizzoli Editore, 672 pagine, 22 euro.